Il tormento cessa, il castigo no. 7 gennaio. Il poveretto entrò di nuovo dalla finestra, fece tanto rumore che mi svegliai prima. Io, se non puoi ancora parlare, dammi un segno di risposta. Sei una povera anima? Egli accenna di sì. Io, ti posso aiutare davvero? Egli assentì di nuovo e mi venne molto vicino. Io, conosci quell'altra anima, che io devo aiutare prima di te? Egli scuote il capo e vuol prendere la mia mano. Non riesco a dargliela questa mano. Io, perché mi tocchi sempre? Allora mostrò tutte le sue piaghe e tumefazioni gridando in modo pauroso. Io pregai con lui. Egli si calmò un po' tenendo la sua mano sul letto. Vieni ancora Gianni, pare non si vedano. Io, sai che c'è qui anche un'altra anima. Lui, sì. Io, la vedi? L'altro, no. Io, e allora come lo sai? Lui, perché tu hai già dato. Io, che cosa ho già dato? Lui, luce. Io, che cosa intendi dire con la parola luce? Lui, la strada. Io, la do anche a te? Lui, sì. Il poveretto andò via. Gianni rimase ancora a lungo, ho pregato molto con lui. Gli ho chiesto ancora molte cose, ma non ebbi risposta. Tutto ciò non lo riesco a capire, come posso dar luce, ma una cosa è chiara, che il poveretto avrà bisogno ancora di molte cose. 9 gennaio. Il poveretto con me dalle 10:30 fino alle 4. Niente da fare con lui. Non mi perse d'occhio un istante, e questo stanca assai. Il suo volto ha forse qualche cosa di naturale. Una volta mi saltò addosso. Io gli gridai, non puoi farlo. Allora egli divenne furioso, ma si ritirò nel suo angolo. Io provai tanto spavento. Appena se ne fu andato, sentii improvvisamente una musica proveniente da lontano, una cosa del tutto nuova. Aprii la finestra, ma dal di fuori non si sentiva niente. 10 gennaio. Gianni venne in pieno giorno, sembrava molto allegro. Gli dissi, sembri molto contento, va meglio? Lui, sì. Io, ma dimmi un po' perché devi ancora continuare ad espiare? Io ho offerto per te più volte l'indulgenza plenaria. Lui, sì. Io, l'hai ricevuta? Lui, sì, Dio è giusto, il tormento cessa, non il castigo. Egli sparve. Incontrata l'ombra, prende la forma di una donna, ma ancora è irriconoscibile. Il poveretto entrò gridando. Ero ancora in piedi. Mi sono messa subito a pregare con lui. Egli poggiò la sua mano sul mio capo, io lo scrollai via e allora disse, da. Io, che cosa devo fare per te? Lui, sacrifici. Io, che cosa? Lui, volontà. Capii subito che cosa pensava perché non lo volevo toccare e dovetti farlo. Egli mi stese le braccia, io le diedi la mano, ma non volentieri, anzi con avversione. Allora egli prese anche l'altra mia mano. Io sentii la sua appiccicosa nella mia mano, avrei voluto piangere. Io gli dissi, che cosa ti può fare la mia mano? Lui, frescura. Stetti ferma ma infelice fino che le sue mani caddero dalle mie, non c'era più niente da dire. Rimase alcun po' e poi disparve. 11 gennaio. Gianni è qui quasi tutta la notte. Ora sembra proprio contento. Io, dimmi perché eri posseduto? Egli, dato scandalo. Io, adesso dove sei? Lui, nell'ombra. Io, ancora lontano dal buon Dio? Lui, sì. Io, verrai ancora spesso da me? Lui, no. Io, perché no? Lui, Non puoi più darmi niente. Io, ma io ti aiuto ben volentieri. Lui, io sono allontanato. Io, che cosa devi patire ancora? Lui, il castigo della separazione. E disparve. Come è strano tutto questo. Io annoto solo quello di cui sono assolutamente sicura. Qualche volta devo ripetere la domanda, perché essi molto spesso mormorano o balbettano soltanto.